Capitolo 4. Per illustrare la formidabile crescita della WSPU, dopo che venne fondata a Londra, per spiegare come mai attirasse istantaneamente le donne indifferenti fino al momento prima di conoscerla, devo chiarire nel dettaglio in cosa la nostra associazione differiva da tutti gli altri organismi favorevoli al suffragio. In primo luogo, le nostre associate sono assolutamente determinate. Concentrano tutte le proprie forze su un unico obiettivo, l'eguaglianza politica con gli uomini. Nessun membro della WSPU divide le sue attenzioni tra il suffragio e altre riforme sociali. Noi riteniamo che tanto il raziocinio quanto la giustizia impongano che le donne svolgano un ruolo attivo nel correggere i mali che affliggono la società, specialmente quei mali che riguardano direttamente le donne stesse. Pertanto, noi chiediamo, prima di qualunque altra nuova legge, l'elementare giustizia del voto alle donne. Non c'è il minimo dubbio che le donne della Gran Bretagna si sarebbero emancipate anni fa se solo tutte le suffragiste avessero adottato questo semplice principio. Ma non lo fecero, e ancora oggi molte donne inglesi si rifiutano di adottarlo. Sono membri di partito prima e suffragiste dopo, oppure sono suffragiste per metà del tempo e sociologhe per l'altra metà. Differiamo inoltre da altre associazioni suffragiste, o quantomeno da quelle esistenti nel 1906, per il fatto che noi abbiamo l'esatta percezione della situazione politica che si pone saldamente tra noi e la nostra emancipazione. Per 7 anni abbiamo avuto una maggioranza alla Camera dei Comuni che prometteva il voto favorevole a un progetto di legge sul suffragio. L'anno prima ne avevamo votato uno, ma quel progetto non era diventato legge. Perché? Perché una maggioranza, pur schiacciante, di parlamentari non ha il potere di rendere esecutiva una legge di fronte all'ostilità degli 11 ministri di un governo. I membri non governativi del Parlamento una volta avevano potere e responsabilità individuali, ma la pratica parlamentare e una mutata concezione della scienza politica hanno gradualmente attenuato le funzioni dei parlamentari. Al momento attuale, i loro poteri, in sostanza, sono limitati al contributo alla promulgazione dei provvedimenti presentati dal governo o, in rari casi, delle misure private approvate da governo. È vero che la Camera può ribellarsi, che può costringere il governo alle dimissioni votando la sfiducia, ma non succede quasi mai, e oggi ha meno probabilità di succedere che in passato. I burattini non si ribellano. Questa dunque era la nostra situazione: il governo onnipotente e costantemente ostile, i legislatori ordinari impotenti, il paese apatico, le donne divise dai propri interessi. La WSPU fu creata per affrontare questa situazione e per superarla, e la nostra politica, persistendo abbastanza a lungo, non poteva non superarla. Vi stupite che raccoglievamo nuove adesioni ad ogni assemblea che organizzavamo? C'era una piccola formalità da espletare per aderire all'associazione. Ogni donna poteva diventarne membro versando uno scellino, ma al contempo le veniva richiesto di firmare una dichiarazione di fedeltà alla nostra linea politica e di impegno a non lavorare per alcun partito finché non fosse vinta la battaglia per il voto alle donne. Questa è tuttora la nostra inflessibile prassi. In più, se in ogni momento un membro o un gruppo di membri perde la sua fede nella nostra linea politica, se qualcuno comincia a suggerire che alcune politiche debbano essere cambiate o se cerca di confondere i nostri obiettivi proponendo altre politiche, allora cessa istantaneamente di essere un nostro membro. Autocratica? Alquanto. Ma potresti obiettare, un'organizzazione suffragista dovrebbe essere democratica. Beh, i membri della WSPU non sono d'accordo con voi. Noi non crediamo nell'efficacia delle organizzazioni suffragiste convenzionali. La WSPU non è intralciata da una complessità di regole. Non abbiamo uno statuto, un ordinamento, una norma di legge, niente da modificare o da aggiungere o da mettere in discussione nei convegni annuali. A dire il vero, non abbiamo neanche convegni annuali, né sedute d'affari, né elezioni per le cariche. La WSPU è semplicemente un esercito suffragista sul campo. È un esercito puramente di volontari e nessuno è obbligato a restarci. Anzi, non vogliamo che qualcuno rimanga con noi se non crede fermamente nella politica dell'esercito. Il fondamento della nostra politica è fare opposizione contro il governo che si rifiuta di concedere il voto alle donne, sostenere con le parole o con i fatti un governo ostile nei confronti del suffragio femminile. Significa semplicemente spronarlo a continuare ad essere ostile. Avversiamo il Partito Liberale perché è al potere. Avverseremmo anche un governo unionista se fosse in carica e fosse contrario al suffragio femminile. Diciamo alle donne che fino a quando resteranno nella fila del Partito Liberale, daranno la loro tacita approvazione alla politica antisuffragista del governo. Facciamo leva su tutti i sinceri suffragisti perché lasciano il Partito Liberale fin quando alle donne non verrà riconosciuto il diritto di voto al pari degli uomini. Invitiamo tutti gli elettori a votare contro i candidati liberali fino a quando il governo liberale non avrà reso giustizia alle donne. Non siamo state noi a inventare questa condotta politica. Era stata sperimentata con successo da Parnell nella battaglia per l'Home Rule più di 35 anni fa. Chi è abbastanza vecchio da ricordare i giorni entusiasmanti di Parnell ricorderà anche come nel 1885 gli Home Rulers, votando insistentemente contro il governo alla Camera dei Comuni, costrinsero alle dimissioni Gladstone e i suoi ministri. Nelle elezioni generali che seguirono, il Partito Liberale ritornò al potere, ma con la risicata maggioranza di 84 deputati, poiché gli Home Rulers avevano osteggiato tutti i candidati liberali, compresi quelli che, come mio marito, erano appassionati sostenitori della Home Rule. Al fine di controllare la Camera e mantenere la sua leadership, il signor Gladstone fu obbligato a presentare un progetto di legge governativo sull'Home Rule. La decadenza del governo, causata da intrighi interni e la successiva morte di Parnell, impedirono al progetto di divenire legge. In seguito, per molti anni, i nazionalisti irlandesi non ebbero una guida abbastanza forte da perpetuare la politica antigovernativa di Parnell, che tuttavia più di recente fu ripresa da James Redmond, con il risultato che la Camera dei Comuni approvò un Home Rule Bill. L'argomento sostenuto dai suffragisti vecchio stampo e dagli stessi politici è sempre stato che un'opinione pubblica ben educata darà prima o poi il voto alle donne, senza il bisogno di esercitare grandi pressioni in favore della riforma. Noi siamo d'accordo sul fatto che la pubblica opinione vada educata, ma sosteniamo che un'opinione pubblica educata è del tutto inutile se non viene utilizzata energicamente. L'arma più affilata è impotente se non viene coraggiosamente brandita. Nel 1906 una vastissima opinione pubblica era favorevole al suffragio femminile. Ma in che modo poteva servire alla causa? Noi chiedevamo alla gente molto più di una generica simpatia. La invitavamo a fare pressioni sul governo affinché desse ascolto all'opinione pubblica e concedesse il voto alle donne. E dichiarammo guerra non solo alle forze antisuffragiste, ma anche a tutte quelle neutrali e non attiviste. Ogni uomo col diritto di voto era considerato un nemico del suffragio femminile, a meno che non si mostrasse pronto a diventare attivamente un amico. Di certo non credevamo che la campagna di formazione dovesse essere abbandonata. Al contrario, eravamo convinte che l'educazione dovesse continuare in maniera ancora più vigorosa che mai. La prima cosa che facemmo fu di intraprendere una sensazionale campagna per far capire alla gente quanto fosse importante il suffragio femminile e per creare interesse attorno ai nostri progetti tesi a mettere il governo con le spalle al muro. Penso di poter affermare che in questo senso il nostro successo fu immediato e che poi si è rivelato duraturo. Fin dall'inizio, da quei primi tempi a Londra, quando eravamo in poche e avevamo pochi soldi in tasca, portammo il suffragio femminile all'attenzione del pubblico, come non era mai accaduto prima. Adottammo i metodi dell'esercito della salvezza e scendemmo nelle strade grandi e piccole a fare proseliti. Gettammo alle ortiche tutte le nozioni convenzionali di raffinatezza e buona educazione e basammo i nostri metodi su un'unica domanda chiave: servirà? Proprio Proprio come i Booth e i loro seguaci portarono la religione nelle strade affollate in modo da turbare la gente di chiesa, noi portammo il suffragio al pubblico generico in una maniera che sorprese e scandalizzò gli altri suffragisti. Stampammo molti opuscoli suffragisti e di giorno in giorno le nostre attiviste uscivano allo scoperto e organizzavano raduni di strada. Scelta una postazione vantaggiosa, con una sedia come podio, una di noi suonava un campanello finché la gente non si fermava a vedere cosa stesse accadendo. Quello che stava accadendo, ovviamente, era un vivace discorso in favore del suffragio, oltre alla distribuzione degli opuscoli. Poco dopo che la nostra campagna ebbe preso il via, il suono della campanella diventò un segnale che faceva spuntare un assembramento di persone come per magia. Per tutto il vicinato si sentiva urlare: «Ecco le suffragette, avvicinatevi!» Coprimmo tutta Londra in questo modo. Non ci facevamo mai scappare un pubblico, e tantomeno un pubblico per cui la questione del suffragio femminile era una cosa nuova. Incrementavamo il pubblico a nostro favore man mano che lo risvegliavamo. Oltre a questi raduni in strada, tenemmo assemblee nelle sale e nei salotti e ricevemmo moltissima pubblicità dalla stampa, cosa che non era stata mai accordata ai vecchi metodi suffragisti. Tra i nostri piani c'era quello di arrivare il prima possibile alla presentazione di un progetto di legge governativo sul suffragio e nella primavera del 1906 spedimmo una delegazione con una trentina di nostri membri a colloquio con il primo ministro, Sir Henry Campbell Bannerman. Il primo ministro, ci fu riferito, non era in casa. Così, pochi giorni dopo, mandavo un'altra delegazione. Questa volta il maggiordomo consentì a comunicare la nostra richiesta al primo ministro. Le donne aspettarono pazientemente sull'uscio della residenza ufficiale al numero 10 di Downing Street per circa un'ora. Poi la porta si aprì e apparvero due uomini. Uno dei due si rivolse al capo della delegazione e le intimò rudemente di andarsene via, lei e tutte le altre. «Abbiamo mandato un messaggio al primo ministro. E stiamo aspettando la risposta», disse lei. «Non ci sarà nessuna risposta», fu l'austera replica, e la porta si richiuse. «Sì che ci sarà una risposta», esclamò il capo della delegazione, afferrando il batacchio della porta e sbattendolo con forza. Gli uomini ricomparvero subito, e uno di loro disse a un poliziotto che si trovava nei pressi: «Arrestate questa donna!» L'ordine fu immediatamente eseguito e la pacifica delegazione vide il suo capo condotto alla Cannon Row Station. Le donne protestarono subito vigorosamente. Annie Kenny cominciò ad arringare la folla che intanto si era radunata e la signora Drummond riuscì a farsi strada oltrepassando l'usciere, fin dentro la sacra residenza del primo ministro dell'impero britannico. Furono arrestate, sia lei sia Annie. Le tre donne furono trattenute alla stazione di polizia per circa un'ora. Quanto bastava, si illudeva forse il primo ministro, a spaventarle per bene e a insegnare loro che certe cose oscene non si fanno. Dopodiché fece sapere loro che aveva deciso di non perseguirle legalmente, ma che anzi avrebbe ricevuto una delegazione della WSPU e se gradivano partecipare anche di altre associazioni suffragiste. Tutte le organizzazioni suffragiste cominciarono a prepararsi in fretta per il grande evento. Nello stesso tempo, 200 membri del Parlamento inviarono una petizione al primo ministro chiedendogli di accogliere un loro comitato che spingeva per una misura governativa in materia di suffragio femminile. Sir Harry fissò al 19 maggio la data in cui avrebbe ricevuto una delegazione congiunta del Parlamento e delle organizzazioni per il suffragio femminile. La WSPU decise di dare il massimo risalto pubblico all'occasione e avviò i preparativi per un corteo e una dimostrazione di piazza. Quando arrivò il giorno, ci radunammo ai piedi del bel monumento alla regina guerriera Boadicea, che affaccia sull'entrata del Westminster Bridge, e da lì marciammo verso il Ministero degli Esteri. Al raduno, 8 donne parlarono a favore di un immediato provvedimento sul suffragio, e che i Reardi fece lo stesso a nome dei parlamentari suffragisti. Io tenni un discorso per conto della WSPU e tentai di far capire al primo ministro che non c'era una questione più urgente della nostra. Gli dissi che le donne organizzate nella nostra associazione sentivano il bisogno dell'emancipazione femminile in maniera talmente forte che erano disposte a sacrificare per la causa tutto ciò che possedevano, il loro mezzo di sostentamento, la loro stessa vita se necessario. Lo implorai di evitare questo sacrificio, concedendoci la giustizia che chiedevamo. Adesso. Quale risposta pensate che ci diede Sir Harry Campbell Bannerman? Ci assicurò che aveva simpatia per la nostra causa, che la riteneva giusta e che era sicuro della nostra idoneità al voto. E poi ci disse di avere pazienza e di aspettare. Non poteva far niente per noi, perché una parte del suo governo era contrario. Dopo qualche altra parola si passò ai ringraziamenti conclusivi e la delegazione fu congedata. Non mi aspettavo nulla di più, ma mi si strinse il cuore a scorgere l'amara delusione sui volti delle donne della WSPU, che avevano aspettato in mezzo alla strada di conoscere dalla loro portavoce l'esito del colloquio. Tenemmo un grande raduno di protesta quel pomeriggio stesso e decidemmo di riprendere le agitazioni con accresciuto vigore. Adesso che era divenuto ormai chiaro come il governo non avesse alcuna intenzione di presentare un progetto di legge per il suffragio, non c'era altro da fare che proseguire la nostra politica di risveglio del paese, non solo attraverso i discorsi pubblici e le dimostrazioni, ma con una costante opera di disturbo del Consiglio dei Ministri. Da quella memorabile volta in cui Christabel Pankhurst e Annie Kenney furono espulse dalla conferenza di Sir Edward Grey a Manchester, e subito incarcerate per aver posto una semplice e cortese domanda, non avevamo mai perso l'occasione di indirizzare la medesima richiesta ad ogni ministro che riuscivamo a incontrare. Per questo eravamo state criticate senza pietà e in molti casi brutalmente malmenate. In quasi tutte le mie riunioni in America mi veniva chiesto: cosa vi aspettavate di ottenere interrompendo le riunioni? Possibile che il radicato e quasi sacro privilegio inglese di interrompere fosse sconosciuto in America? Non riesco a concepire una riunione politica in cui la voce fosse del tutto assente. In Inghilterra è sempre presente. È considerato un diritto inalienabile dell'opposizione disturbare chi sta parlando e lanciargli delle domande appositamente per rovinare le sue argomentazioni. Ad esempio, quando i liberali assistono a un raduno dei conservatori, si preparano a inficiare l'efficacia dei comizianti con battute e domande mirate. Il giorno dopo, sui quotidiani liberali, si leggeranno titoli del genere: La voce in gran forma, pesci in faccia alle scemenze dei Tory, repliche imbarazzate dal palco nemico. Leggendo l'articolo, si apprenderà che Lord Decimo ha appurato che alla sua assemblea i liberali gli davano filo da torcere, che ci sono state continue interruzioni durante il discorso di Sir Tal Detali, che Lord Y se l'è vista brutta ieri sera all'incontro con la voce, o che il Capitan Z ha avuto grandi difficoltà a farsi sentire. Seguendo questa consuetudine, noi infastidiamo i ministri del governo. Winston Churchill, ad esempio, sta parlando. Resta da affrontare, esclama, un'importante questione. È quella del suffragio femminile, grida una voce dalla galleria. Churchill cerca a stento di proseguire il suo discorso. Gli uomini si sono lamentati di me? Anche le donne si sono lamentate di lei, signor Churchill, si sente subito dal fondo della sala. In queste condizioni ciò che possiamo fare è dare il voto alle donne. Il nostro obiettivo, naturalmente, è mantenere in primo piano l'interesse per il suffragio femminile e insistere ad ogni possibile occasione che nessun'altra riforma è di importanza più così urgente. Fin dall'inizio le interruzioni delle donne sono state accolte con irragionevole rabbia. Ricordo che una volta sentii il signor Lloyd George dire a un uomo che lo aveva interrotto: Lasciatelo parlare, mi piacciono le interruzioni, dimostrano che qui sono presenti persone che la pensano diversamente da me, dandomi la possibilità di convertirle. Ma quando erano le suffragiste a interromperlo, il signor Lloyd George diceva cose garbate come questa: Non fate caso a quelle gatte miagolanti. Alcuni ministri erano un po' più educati nelle espressioni, ma comunque erano tutti sprezzanti e risentiti. Tutti approvavano l'espulsione delle donne coi modi spicci del servizio d'ordine liberale. Ad una riunione in cui stava parlando Lloyd George, lo interrompemmo con una domanda e lui cercò di accattivarsi le simpatie dei presenti affermando che era un amico del suffragio femminile. «Allora perché non fate qualcosa per dare il voto alle donne?» fu l'ovvia replica. Ma Lloyd George eluse la richiesta contrapponendo una domanda. «Perché non vanno ad attaccare i loro nemici? Perché non attaccano i loro veri nemici?» Immediatamente per tutta la sala si udì urlare. «Asquith! Asquith!» Perché anche in quei primi tempi era risaputo che l'allora cancelliere dello scacchiere fosse uno strenuo oppositore dell'indipendenza delle donne. Nell'estate del 1906, insieme ad altri membri della WSPU, andai a Northampton, dove il signor Asquith stava tenendo una grande conferenza a sostegno dei progetti di legge governativi in materia di educazione. Organizzammo varie riunioni all'aperto e naturalmente ci preparammo ad assistere alla conferenza di Asquith. Discorrendo con la presidente della locale associazione delle donne liberali, fece riferimento al fatto che ci aspettavamo di essere sbattute fuori e lei affermò sdegnatamente che certe cose non succedevano a Norento, dove le donne avevano fatto tanto per il Partito Liberale. Le dissi che speravo di vederla partecipare alla riunione. Non avevo intenzione di andarci. Il mio piano era di tenere un'assemblea fuori dall'entrata, ma le nostre associate, prima che il signor Asquith iniziasse a parlare, tentarono di fargli una domanda e furono buttate fuori con violenza. A quel punto, lasciando la mia assemblea nelle loro mani, mi intrufolai con calma nella sala e andai a sedermi nella prima fila di un settore riservato alle mogli e alle amiche dei leader liberali. Rimasi lì in silenzio, ascoltando gli uomini che interrompevano i relatori e ricevevano delle risposte. Al termine del discorso mi alzai in piedi e rivolta al presidente dissi: «Vorrei fare al signor Asquith una domanda sull'educazione». Il presidente si voltò con aria interrogativa verso Asquith, che scuoteva la testa tutto rabbuiato. Ma senza attendere che il presidente dicesse una sola parola, continuai: «Il signor Asquith ha dichiarato che i genitori hanno il diritto di essere consultati per quanto riguarda l'educazione dei loro figli, soprattutto in merito al tipo di educazione religiosa che dovrebbero ricevere. Le donne sono genitori. Il signor Asquith non pensa forse che le donne debbano avere il diritto di controllare l'educazione dei propri figli, come per gli uomini attraverso il voto?» A questo punto gli addetti al servizio d'ordine mi agguantarono per le braccia e le spalle e mi strattonarono, o meglio, mi trascinarono, perché persi subito l'appoggio sui piedi, verso l'uscita e mi gettarono fuori dall'edificio. L'effetto sulla presidente della Northampton Women's Liberal Association fu per lo più benefico. Si dimise dall'incarico e divenne un membro della WSPU. Forse il suo gesto fu influenzato dai rapporti della stampa sull'incidente. I giornali scrissero che Asquith, dopo la mia espulsione, disse che era difficile entrare nella testa di persone che credevano di servire una causa, per cui professavano di volersi appellare alla ragione degli elettori del paese, disturbando le riunioni pubbliche. A quanto pare, era però in grado di entrare nella testa degli uomini che disturbavano le riunioni pubbliche. Alla consueta opera di disturbo dei membri responsabili dell'ostilità del governo, affiancammo la pratica di inviare loro delle delegazioni col preciso scopo di presentare regolari contributi a favore della nostra causa. Dopo che Asquith si era dimostrato tanto disinformato sugli obiettivi dei suffragisti, decidemmo di chiedergli di ricevere una delegazione della WSPU. Alla nostra educata lettera, il signor Asquith rispose con un secco rifiuto Essere interrogato su qualsiasi tema non attinente alla sua carica specifica. Al che scrivemmo di nuovo, ricordando al signor Asquith che in quanto membro del governo era di sua competenza tutte le questioni che andavano affrontate col Parlamento. Gli dicemmo che desideravamo con urgenza di sottoporgli la nostra domanda e che avremmo inviato una delegazione alla sua residenza nella speranza che ritenesse un suo dovere riceverci. Alla nostra prima delegazione fu riferito che il signor Asquith non era in casa. In realtà era scappato dalla porta di servizio e si era allontanato a tutta velocità con un mezzo a motore. Due giorni dopo mandammo una delegazione più numerosa, circa 30 donne, alla sua casa di Cavendish Square. Per essere precisi, la delegazione riuscì ad avvicinarsi alla casa fino all'ingresso di Cavendish Square, dove incontrarono un robusto schieramento di polizia, il quale affermò che non le avrebbe fatte avanzare oltre. Molte portavano i cartelli "voto alle donne". La polizia li strappò dalle loro mani, in alcuni casi colpendole e insultandole. Assistendo alla scena, il capo della delegazione urlò: "Andremo avanti! Non avete il diritto di colpire le donne in quel modo!" La replica, da un poliziotto vicino a lei, fu un pugno in faccia. Lei gridò di dolore, indignazione, al che l'uomo la prese per la gola e la sbatté contro la cancellata del parco finché non diventò paonazza. La giovane donna si dibatté, reagì e per questo fu arrestata con l'accusa di aggressione alla polizia. Furono arrestate altre 3 donne, una perché, malgrado la polizia, riuscì a suonare il campanello sul portone di Esquit, e un'altra perché protestò contro le risa di alcune signore che guardavano la scena affacciate dalla finestra di un salotto. Era una povera lavoratrice. Le sembrava una cosa terribile che delle donne ricche e ben protette potessero prendere in giro una causa che per lei era profondamente seria. Un'ultima donna fu condotta in prigione perché, dopo essere stata sbattuta per terra, aveva osato rialzarsi. Accusate di schiamazzi e molestie, queste donne furono condannate a una detenzione di 6 settimane nella seconda divisione. Venne dato loro l'opzione di una multa, ma il pagamento di una multa equivale a riconoscere una colpa, il che lo rendeva quindi impraticabile. La donna capo della delegazione fu condannata a 2 mesi con l'opzione di una multa di 10 sterline. Anche lei si rifiutò di pagare e fu mandata in prigione. Ma qualche ignoto amico pagò la multa in segreto e dunque fu rilasciata prima del termine della pena. Più o meno nel periodo in cui queste cose succedevano a Londra, violenze simili vennero usate sulle nostre donne a Manchester, dove John Burns, Lloyd George e Winston Churchill, tutti e 3 ministri del governo, stavano parlando a una manifestazione di liberali. Le donne, come al solito, erano presenti per chiedere ai governanti di aiutare il nostro provvedimento. E anche lì furono espulse dall'assemblea e 3 di loro finirono in prigione. Ci sono persone in Inghilterra, ce ne sono molte, che vorranno farvi credere che le suffragette furono mandate in prigione per avere distrutto delle proprietà. La verità è che centinaia di donne furono arrestate esattamente per gli oltraggi che vi ho descritto, ben prima che a qualcuna venisse in mente di danneggiare delle proprietà. Agli inizi del nostro movimento eravamo determinate a farci ascoltare, a costringere il governo a prendere in considerazione la nostra richiesta e a dare una risposta con un'azione in Parlamento. È probabile che ravvisiate un qualche parallelismo tra la nostra causa e la posizione assunta in Massachusetts dai primi abolizionisti, Wendell Phillips e William Lloyd Garrison. Anche loro dovettero lottare duramente, sottostare a insulti e arresti, perché insistevano per farsi ascoltare e furono ascoltati col tempo anche noi. Penso che cominciamo ad essere prese sul serio dopo il nostro primo successo nell'opposizione a un candidato liberale. Accadde in un'elezione straordinaria a Cockermouth nell'agosto del 1906. Mi preme spiegare che un'elezione straordinaria è una votazione locale atta a riempire un posto vacante in Parlamento causato da decesso o dimissioni. Il verdetto di un'elezione straordinaria è considerato un'approvazione o una censura del modo in cui il governo ha mantenuto i suoi impegni preelettorali. Così andammo a Cockermouth e raccontammo agli elettori in che modo il Partito Liberale aveva tenuto fede alle sue promesse di democrazia e al suo professato credo nei diritti di tutte le persone. Raccontammo degli arresti di Londra e Manchester o del vergognoso trattamento riservato alle donne e alle assemblee liberali, e chiedemmo loro di censurare il governo che tanto brutalmente aveva risposto alla nostra richiesta di voto. Dicemmo che l'unica minaccia che i politici sapevano ascoltare era quella di perdere la propria poltrona in Parlamento e pertanto chiedemmo agli elettori di votare contro il candidato liberale. Quanto fummo dileggiate! Con quale disprezzo i giornali dichiararono che quelle pazze non sarebbero riuscite a spostare un solo voto. Eppure, quando le elezioni furono terminate, uscì fuori che il candidato liberale aveva perduto il suo seggio Seggio, che alle elezioni generali di poco più di un anno prima era stato conquistato con una maggioranza di 655 voti. Questa volta il candidato unionista fu eletto con una maggioranza di 609. Tremendamente euforiche, ci dirigemmo a grande velocità verso un'altra elezione straordinaria. La derisione nei nostri confronti si trasformò in vere e proprie ingiurie. In ogni caso, il governo liberale continuava a ignorare la questione femminile. Dichiarò attraverso la stampa amica che la sconfitta di Cockermouth era insignificante e che comunque non era stata causata dalle suffragette. Eppure i leader liberali erano furibondi con la WSPU. Molte delle nostre associate erano state liberali e queste donne erano considerate dagli uomini poco meno che traditrici. Erano incoscienti e sconsiderate, secondo i liberali, perché il diritto di voto, se si vuole ottenerlo, lo si deve ottenere tramite il Partito Liberale. E come potevano pretendere queste donne che il Partito Liberale concedesse il voto a delle nemiche giurate? Questa saggia argomentazione veniva sostenuta anche dalle donne liberali e dai suffragisti istituzionali. Continuavano a dirci che la strada giusta era lavorare per il partito. Noi replicavamo che l'avevamo già fatto inutilmente per troppi anni e insistemmo ad applicare l'opposto metodo della persuasione. Nel corso dell'estate e dell'autunno, ci dedicammo al lavoro sulle elezioni straordinarie, talora riuscendo effettivamente a sconfiggere il candidato liberale, talvolta riducendo la maggioranza liberale e comunque ottenendo sempre grande risalto e raccogliendo centinaia di nuovi membri della WSPU. In quasi tutti i quartieri che visitammo, davamo origine a un'associazione locale e così, prima della fine dell'anno, ci eravamo ramificate in tutta l'Inghilterra e gran parte della Scozia e del Galles. Ricordo in particolare un'elezione straordinaria in Galles in cui Samuel Evans, che aveva accettato una carica sotto la corona, concorreva per essere eletto. Sfortunatamente nessun candidato gli era stato contrapposto, perciò per me e le mie compagne non c'era nulla da fare per mettere un po' di agitazione nella sua campagna elettorale. Il signor, ora Sir Samuel Evans, era l'uomo che aveva fatto imbestialire le donne, ostacolando una risoluzione suffragista presentata alla Camera da Keir Hardie. Quindi andammo a due delle sue riunioni e lo facemmo letteralmente ammattire, disintegrando l'assemblea tra le risate e il tifo della folla gongolante. Il 23 ottobre il Parlamento si riunì per la seduta annuale e noi inviamo una delegazione alla Camera dei Comuni in un nuovo tentativo di spingere il governo a farsi carico del suffragio femminile. Rispettando gli ordini impartiti alla polizia, soltanto 20 di noi furono ammesse alla Strangers Lobby. Cercammo il responsabile della sicurezza dei liberali e gli chiedemmo di portare un messaggio al primo ministro con la nostra solita richiesta di concessione del voto alle donne in quella stessa seduta. Chiedevamo inoltre al primo ministro se avesse intenzione di includere la registrazione di qualificate elettrici tra le misure del progetto di legge sul voto multiplo, allora al vaglio. Il responsabile della sicurezza dei liberali tornò da noi con la risposta che in quella seduta non si poteva far nulla per le donne. Il primo ministro, chiesi io, può dare qualche speranza alle donne per una seduta durante la legislatura di questo Parlamento o in qualche momento futuro? Il primo ministro, vi ricordo, si diceva un suffragista. Il responsabile dei liberali rispose: no, signora Pankhurst, il primo ministro non può. Cosa avrebbe fatto in una circostanza del genere una delegazione di uomini non emancipati, uomini che sapevano di essere qualificati per esercitare il diritto di voto e che avevano la maggioranza dei legislatori pronti a concedere loro il diritto di voto? Spero tanto che avrebbero fatto almeno quello che facciamo noi, cioè dar vita lì sul posto a una manifestazione di protesta. I giornali scrissero che con nostro gesto avevamo fatto una sceneggiata vergognosa nell'atrio della Camera dei Comuni. Ma io credo che la storia la racconterei in un'altra maniera. Una delle donne salì su una poltrona e cominciò ad arringare la folla. In meno di un minuto fu tirata giù, ma un'altra donna salì santanamente al suo posto. E dopo che anche questa fu fatta scendere, ne salì un'altra, e dopo di lei un'altra, e poi un'altra ancora, fino a quando l'atrio non fu sgomberato e noi venimmo tutte sospinte all'esterno. Nella calca io caddi a terra e mi feci male. Le donne, credendomi ferita gravemente, Mi si affollarono attorno, rifiutando di spostarsi finché non fossi stata in grado di riprendermi. Questo fece arrabbiare la polizia, che si infuriò ancora di più quando scoprì che la manifestazione continuava all'esterno. Furono arrestate 11 donne, tra cui la signora Pethin Lawrence, la nostra tesoriera, la signora Colben Sanderson, Annie Kenny e altre tre delle nostre organizzatrici, e vennero tutte spedite a Holloway per 2 mesi. Ma la forza del nostro movimento fu dimostrata dal numero di volontarie che si fecero subito avanti per continuare il lavoro. La signora Took, oggi onorevole segretaria della WSPU, aderì all'associazione proprio in quella circostanza. Le autorità non pensavano minimamente che la loro azione avrebbe avuto questo effetto. Credevano di poter schiacciare la WSPU in un colpo solo. Invece le diedero la più grande spinta che avesse mai ricevuto. I capi delle vecchie organizzazioni suffragiste misero da parte per una volta la contrarietà ai nostri metodi e si unirono a scrittrici, dottoresse, attrici, artiste e altre donne di spicco nel denunciare la vicenda come una barbarie. Un'altra cosa le autorità mancarono di tenere in considerazione: la condizione delle carceri inglesi era nota per essere pessima. Ma quando due delle nostre donne si ammalarono a Holloway, al punto da dover essere rilasciate nel giro di pochi giorni, i politici iniziarono a temere per il loro prestigio. Furono poste delle interrogazioni in Parlamento sull'opportunità di trattare le suffragette non come delinquenti comuni, ma come prigioniere politiche col diritto di essere detenute nella prima divisione. Herbert Gladstone, il segretario di Stato, rispose a queste interrogazioni che non aveva il potere di interferire con le decisioni dei magistrati e che non poteva fare niente riguardo alla punizione da infliggere alle suffragette. Vi chiederò di ricordare questa dichiarazione del signor Herbert Gladstone quando in seguito avremo modo di dimostrare che si trattava di una deliberata menzogna, anche se in realtà la bugia si smascherò da sola quando le donne, per ordine del governo, furono rilasciate dal carcere dopo aver scontato solo metà della pena. Questo gesto fu la conseguenza del fatto che nel nord dell'Inghilterra si stava tenendo un'importante elezione straordinaria, e che per l'occasione avevamo distribuito del materiale informativo in tutta la circoscrizione, informando agli elettori che 9 donne, tra cui la signora di Richard Coben, venivano trattate come criminali comuni dal governo liberale, che aveva ricevuto la richiesta di concedere loro il diritto di voto. Portai a Huddersfield un gruppo delle detenute rilasciate e loro raccontarono storie di prigionia con una tale efficacia che la maggioranza liberale si ridusse di 540 voti. Come al solito, i leader liberali negarono che il nostro lavoro avesse qualcosa a che fare con la risicata maggioranza con cui il partito mantenne il seggio. Ma tra i nostri souvenir c'è anche un volantino, una delle migliaia che distribuimmo al quartier generale dei liberali. Nel frattempo, altre dimostrazioni avevano avuto luogo davanti alla Camera dei Comuni e nei giorni di Natale 21 suffragette si trovavano nella prigione di Holloway, pur non avendo commesso alcun crimine. Il governo si dimostrò irremovibile e i membri del Parlamento usarono toni di scherno, riferendosi alle martiri autonominate. Tuttavia, un consistente gruppo di parlamentari, fortemente stimolati dalla passione e dall'inesauribile ardore di questo nuovo tipo di suffragiste, si riunì durante l'ultima settimana dell'anno e formò un comitato, il cui obiettivo era fare pressioni sul governo circa la necessità di concedere il diritto di voto alle donne nel corso di quella legislatura. Il comitato deliberò che i suoi membri lavorassero per informare quella questione a una vasta opinione pubblica e in particolare per sostenere il suffragio ogni volta che avessero tenuto discorsi nelle rispettive circoscrizioni, per attivare il Parlamento ad ogni buona occasione e per indurre quanti più parlamentari possibili a votare in favore della presentazione di un progetto di legge o di una mozione sul suffragio alla prossima seduta. Il nostro primo anno a Londra aveva dato frutti eccezionali. Eravamo cresciute da un semplice manipolo di donne, un partito familiare, ci avevano derisoriamente definito i giornali, a una robusta organizzazione ramificata in tutto il paese, con sede centrale a Clapton Inn, sullo Strand. Avevamo trovato solide risorse finanziarie e soprattutto avevamo formato un comitato per il suffragio alla Camera dei Comuni.